Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Ursenar. Humanitas, felicitas, libertas. Queste belle parole incise sulle monete del mio regno non le ho inventate io. Qualsiasi filosofo greco, qualsiasi romano colto si propone del mondo la stessa immagine che mi propongo io. Ho sentito Traiano, messo di fronte a una legge ingiusta perché troppo rigorosa, protestare che la sua applicazione non rispondeva più allo spirito dei tempi. Ma a questo spirito dei tempi, forse sarò stato io il primo a subordinare coscientemente tutte le mie azioni, a farne qualcosa di diverso dai sogni nebulosi del filosofo, dalle aspirazioni vaghe del buon principe. E ringraziavo gli dèi per avermi concesso di vivere in un'epoca in cui il compito che m'era toccato in sorte consisteva nel riorganizzare prudentemente un mondo già vivo e non nell'estrarre dal caos una materia ancora informe o nel distendermi su di un cadavere per cercare di risuscitarlo. Mi rallegravo che il nostro passato fosse antico abbastanza per fornirci esempi eccellenti e non tanto pesante da schiacciarci con essi, che lo sviluppo della nostra tecnica fosse pervenuto al punto da facilitare l'igiene delle città e la prosperità dei popoli, ma non a quell'eccesso in cui rischierebbe di sommergere l'uomo con acquisizioni inutili, che le nostre arti, alberi un poco esausti per la gran copia dei loro doni, fossero ancora capaci di qualche frutto squisito. Mi rallegravo che le nostre religioni vaghe e venerabili, purificate da intransigenze e da riti feroci, ci associassero misteriosamente ai sogni più antichi dell'uomo e della terra, ma senza inibirci una spiegazione laica dei fatti, un'intuizione razionale della condotta umana. Mi piaceva infine che queste stesse parole, umanità, felicità, libertà, non fossero ancora avvilite da tante applicazioni ridicole. Quando si saranno alleviate sempre più le schiavitù inutili, si saranno scongiurate le sventure non necessarie, resterà sempre, per tenere in esercizio le virtù eroiche dell'uomo, la lunga serie dei mali veri e propri, la morte, la vecchiaia, le malattie inguaribili, l'amore non corrisposto, l'amicizia respinta o tradita, la mediocrità d'una vita meno vasta dei nostri progetti e più opaca dei nostri sogni, tutte le sciagure provocate dalla natura divina delle cose. Bisogna che lo confessi. Credo poco alle leggi. Se troppo dure, si trasgrediscono, e con ragione. Se troppo complicate, l'ingegnosità umana riesce facilmente a insinuarsi entro le maglie di questa massa fragile che striscia sul fondo. Il rispetto delle leggi antiche corrisponde a quel che la pietà umana ha di più profondo e serve come guanciale per l'inerzia dei giudici. Le leggi più antiche non sono esenti da quella selvatichezza che miravano a correggere. Le più venerabili rimangono ancora un prodotto della forza. La maggior parte delle nostre leggi penali, e forse è un bene, non raggiungono che un'esigua parte dei colpevoli. Quelle civili non saranno mai tanto duttili da adattarsi all'immensa e fluida varietà dei fatti. Esse mutano meno rapidamente dei costumi, pericolose quando sono in ritardo, ancor più quando presumono di anticiparli. E tuttavia, da questo cumulo di innovazioni pericolose e di consuetudini antiquate, emerge qua e là, come in medicina, qualche formula utile. I filosofi greci ci hanno insegnato a conoscere un po' meglio la natura umana. I nostri migliori giuristi, da qualche generazione, rivolgono le loro cure nella direzione del senso comune. Ho posto in atto anch'io talune di quelle riforme parziali che sono le sole durevoli. Ogni legge trasgredita troppo spesso è cattiva. Spetta al legislatore abrogarla o emendarla per impedire che il dispregio in cui è caduta quella stolta ordinanza si estenda ad altre leggi più giuste. mi proposi di eliminare cautamente le leggi superflue e di promulgare con fermezza un piccolo numero di saggi decreti. Sembrava giunta l'ora di riesaminare, nell'interesse dell'umanità, tutte le prescrizioni antiche. In Spagna, nei dintorni di Tarragona, un giorno in cui visitavo da solo una miniera semiabbandonata, uno schiavo, la cui intera esistenza era trascorsa in quelle gallerie sotterranee, si scagliò su di me con un pugnale. Non mancava di logica se cercava di vendicarsi sull'imperatore dei suoi 43 anni di servaggio. Lo disarmai senza fatica, lo consegnai al mio medico e il furore cadde di colpo. Egli si trasformò in quel che era veramente, un essere non meno sensato e più fedele di molti altri. La legge, se crudelmente applicata, avrebbe fatto giustizia immediatamente di quello sciagurato, e invece egli divenne per me un servo eccellente. La maggior parte degli uomini somiglia a quello schiavo, troppo sottomessi, interrompono lunghi periodi di torpore con rivolte brutali quanto inutili. Volevo sperimentare se la libertà, saggiamente intesa, non avrebbe dato migliori frutti, e mi stupisco che un'esperienza simile non abbia tentato un maggior numero di principi. Quel barbaro, condannato a lavorare nelle miniere, divenne per me l'emblema di tutti i nostri schiavi, di tutti i nostri barbari. Non mi sembrava impossibile trattarli come avevo trattato quell'uomo, renderli inoffensivi a forza di bontà, purché sapessero anzitutto che la mano che li disarmava era ferma. Fino ad oggi tutti i popoli sono periti per mancanza di generosità. Sparta sarebbe sopravvissuta più a lungo se avesse interessato gli uomini. Viene il giorno che Atlante cessa di sostenere il peso del cielo e la sua rivolta squassa la terra. Avrei voluto allontanare il più possibile, evitarlo se si poteva, il momento in cui i barbari dall'esterno, gli schiavi dall'interno, si sarebbero avventati su un mondo che si pretende essi rispettino da lontano o servano dal basso, ma i cui benefici sono a loro interdetti. Tenevo a quella più diseredata delle creature, lo schiavo che sgombra le cloache delle città, il barbaro famelico che si aggira minaccioso alle frontiere, avessero interesse a veder durare Roma. Non credo che alcun sistema filosofico riuscirà mai a sopprimere la schiavitù. Tutt'al più ne muterà il nome. Si possono immaginare forme di schiavitù peggiori delle nostre, perché più insidiose. Sia che si riesca a trasformare gli uomini in macchine stupide e appagate, che si credono libere mentre sono asservite, sia che si imprima in loro una passione forsennata per il lavoro, divorante quanto quella della guerra presso le razze barbare, tale da escludere gli svaghi, i piaceri umani. A questa schiavitù dello spirito o dell'immaginazione umana preferisco ancora la nostra schiavitù di fatto. Qualunque cosa avvenga, la condizione orribile che mette l'uomo alla mercé di un altro uomo esige un'attenta regolamentazione giuridica. Ho provveduto affinché lo schiavo non sia più una mercanzia anonima che si vende senza tener conto dei legami di famiglia che si è creati, un oggetto spregevole la cui testimonianza non viene accolta dal giudice se non dopo averlo sottoposto alla tortura, invece di accettarla sotto giuramento. Ho proibito che lo si obbligasse a mestieri disonoranti o rischiosi, che lo si vendesse ai tenutari di postriboli o alle scuole per gladiatori. Coloro che si compiacciono di queste professioni le esercitino pure, le eserciteranno meglio. Nelle fattorie, dove gli amministratori abusano delle sue forze, spesso ho rimpiazzato lo schiavo con coloni liberi. Le nostre raccolte di aneddoti rigurgitano di storie di crapuloni che gettano i domestici alle murene, ma i crimini scandalosi, facilmente punibili, son poca cosa di fronte alle mille e mille angherie oscure perpetrate ogni giorno da persone cosiddette per bene, ma dal cuore arido, che nessuno si sogna di molestare. Si è protestato quando bandì da Roma una patrizia facoltosa e stimata perché maltrattava i suoi vecchi schiavi. Qualsiasi ingrato che trascura i genitori infermi scuote di più la coscienza pubblica, ma io non vedo molta differenza tra queste due forme di crudeltà inumana. Troppo spesso per l'esercito la pace non è che un periodo di disoccupazione turbolenta tra due battaglie. L'alternativa all'inazione o al disordine è la preparazione in vista di una guerra determinata e poi la guerra. Ho rotto con queste consuetudini. Le mie visite insistenti agli avamposti non erano che un mezzo tra tanti per tenere in una sana attività quell'esercito pacifico. Dappertutto, in pianura, tra i monti, al limitare delle foreste, in pieno deserto, la legione estende o concentra le sue costruzioni, sempre le stesse. Crea i campi per le manovre, i baraccamenti destinati a Colonia a resistere alla neve, a Lambesia a fronteggiare le tempeste di sabbia, i magazzini, dei quali avevo fatto vendere il materiale inutile, il circolo degli ufficiali, al quale presiede una statua del principe. Ma questa uniformità è solo apparente. Questi alloggiamenti interscambiabili contengono la folla delle truppe ausiliarie, diverse ogni volta. Tutte le razze apportano all'esercito le loro virtù, le loro armi particolari, la loro specie di fanti, di cavalieri, di arcieri. Vi ritrovavo allo stato bruto quella varietà nell'unità che fu il mio fine imperiale. Ho permesso ai soldati di usare il loro grido di guerra nazionale, di impartire e ricevere ordini nelle loro lingue. Ho sanzionato le unioni dei veterani con donne barbare. Ho legittimato i loro figli. Ho fatto di tutto anche per attenuare la durezza della vita al campo, per trattare quegli uomini semplici da uomini. A rischio di renderli meno mobili, volli che si affezionassero a quell'angolo di terra che erano destinati a difendere. Non esitai a regionalizzare l'esercito. Speravo di ristabilire su scala imperiale l'equivalente delle milizie della giovane Repubblica, quando ogni uomo difendeva il suo campo, la sua fattoria. Ho inteso soprattutto sviluppare l'efficienza tecnica delle legioni. Volevo servirmi di quei centri militari come d'una molla di civilizzazione, d'un cuneo tanto solido da penetrare a poco laddove gli strumenti più delicati della vita civile si sarebbero spuntati. L'esercito diveniva così un tramite tra le popolazioni delle selve, delle steppe, delle paludi e i raffinati abitatori delle città. Una scuola elementare per barbari, scuola di resistenza e di responsabilità per il greco letterato o per il giovane cavaliere avvezzo agli agi di Roma. Conoscevo di persona gli aspetti penosi di quella vita, nonché le sue facilitazioni, i suoi sotterfugi. Abolii i privilegi, interdissi i congedi troppo frequenti accordati agli ufficiali, feci sbarazzare gli accampamenti delle sale di banchetti, dei padiglioni di piacere, dei costosissimi giardini. Quegli edifici inutili divennero infermerie, ospizi per i veterani. Noi reclutavamo i nostri soldati in età troppo acerba e li trattenevamo in servizio per troppi anni. E questo era allo stesso tempo antieconomico e crudele. Ho cambiato tutto ciò. La disciplina augusta deve a se stessa di partecipare all'umanità del mio secolo. Noi siamo funzionari dello Stato, non siamo Cesari. Aveva ragione quella postulante che m'ero rifiutato un giorno di ascoltare fino alla fine, quando esclamò che se mi mancava il tempo per darle retta, mi mancava il tempo per regnare. Le scuse che le feci non erano solo formali. E tuttavia, il tempo mi manca. Più l'impero si estende, più i vari aspetti dell'autorità tendono a concentrarsi nelle mani del funzionario in capo. Quest'uomo oberato necessariamente deve scaricare su altre persone una parte dei suoi compiti. Il suo genio consisterà sempre più nel circondarsi di gente fidata. Il peggior crimine di Claudio e di Nerone fu di lasciare pigramente che i loro liberti o i loro schiavi si impadronissero di queste funzioni di agenti, consiglieri, delegati del capo supremo. Ho trascorso una parte della mia vita e dei miei viaggi a scegliere i capi d'una burocrazia nuova, a esercitarli e adeguare, con il maggior fiuto possibile, le capacità alle mansioni, a creare utili possibilità di impiego per questa classe media dalla quale dipende lo Stato. Il pericolo che si cela in questi eserciti civili non mi sfugge. Lo si può definire in una parola: la mentalità burocratica. Su 20 anni di potere, 12 li ho trascorsi senza fissa dimora. Ho abitato di volta in volta i palazzi dei mercanti in Asia, le oneste case greche, le belle ville munite di bagni e stufe dei residenti romani in Gallia, i tuguri, le fattorie, la tenda. Quella leggera architettura di tela e di corde era ancora l'abitazione che preferivo. Non meno varie le navi delle abitazioni. Ebbi la mia, provvista di un ginnasio ed una biblioteca, ma diffidavo troppo di qualsiasi forma di stabilità per legarmi a una dimora, anche se mobile. La barca di piacere d'un ricco siriano, i vascelli d'alto bordo della nostra flotta o il caicco d'un pescatore greco andavano per me egualmente bene. L'unica mia esigenza era la velocità e tutto ciò che la seconda, i cavalli migliori, le vetture più molleggiate, i bagagli meno ingombranti, gli abiti, le suppellettili più adatte al clima. Ma la grande risorsa era innanzitutto lo stato perfetto del corpo. Una marcia forzata di 20 leghe non era niente. Una notte insonne la consideravo null'altro che un invito a pensare. Sono pochi gli uomini che amano viaggiare a lungo. È una frattura continua di tutte le abitudini, una smentita inflitta incessantemente a tutti i pregiudizi. Ma io facevo di tutto per non avere alcun pregiudizio e pochissime abitudini. Apprezzavo la delizia d'un letto soffice, ma anche il contatto, l'odore stesso della terra nuda, le disuguaglianze di ogni segmento della circonferenza del mondo. Mi era noto ogni miglio delle nostre strade. Forse sono il più bel dono che Roma abbia fatto alla terra. Ma il momento più indimenticabile era quello in cui la strada cessava, sul fianco di una montagna, e di crepaccio in crepaccio, di roccia in roccia, ci si inerpicava per assistere all'aurora dall'alto d'una cima dei Pirenei o delle Alpi. Già altri uomini, prima di me, avevano percorso la terra, Pitagora, Platone, una 12 di saggi e un buon numero di avventurieri. Per la prima volta, però, quel viaggiatore era al tempo stesso il padrone, libero al tempo stesso di vedere e di riformare, libero di creare. Era la mia sorte, e mi rendevo conto che forse sarebbero trascorsi secoli prima che si ristabilisse quel felice accordo di una funzione, d'un temperamento, d'un mondo, e mi accorsi quanto sia vantaggioso essere un uomo nuovo, solo, quasi esente da vincoli matrimoniali, senza figli, quasi senza avi, un Ulisse senza altra Itaca che quella interiore. Conviene che io faccia qui una confessione che non ho fatto a nessuno. Non ho mai avuto la sensazione di appartenere completamente a nessun luogo, neppure alla mia dilettissima Atene, neppure a Roma. Straniero dappertutto, non mi sentivo particolarmente isolato in nessun luogo. Cammin facendo esercitavo le diverse professioni di cui si compone il mestiere di imperatore. Indossavo la vita militare come un vestito che è diventato comodo a furia d'essere portato. Senza sforzo ritrovavo tra le mie labbra il gergo degli accampamenti, quel latino deformato dall'incalzare delle lingue barbare, punteggiato di bestemmie rituali o di facezie scontate. Mi riabituavo all'equipaggiamento ingombrante delle manovre, a quella tensione d'equilibrio che imprime su tutto il corpo il carico dello scudo massiccio al braccio sinistro. Del mestiere di giudice ho già parlato. Mi si affacciavano alla mente analogie con altre attività. Pensavo al medico ambulante che visita le persone di porta in porta, all'operaio chiamato a riparare un argine o rinsaldare una conduttura d'acqua, al sorvegliante che percorre avanti e indietro il ponte della nave, incitando i rematori, ma servendosi il meno possibile della sferza. E oggi, sulle terrazze della villa, mentre osservo gli schiavi potare i rami o sfrondare le siepi, penso soprattutto all'onesto andirivieni del giardiniere. Thank you.